188. Zucchini fritti primo. Gli zucchini fritti bene piacciono generalmente a tutti e si prestano a meraviglia per rifiorire o contornare un altro fritto qualunque. Prendete zucchini di forma allungata, della dimensione di un dito e più, lavateli e tagliateli a filetti larghi un centimetro o meno. Levate loro una parte del midollo e salateli non troppo. Dopo un'ora o due da questa preparazione, scolateli dall'acquosità che hanno gettata e senza asciugarli, punto, buttateli nella farina e da questa nel vagliettino, scuotendoli bene dalla farina superflua. Subito dopo, gettateli in padella, ove l'unto, olio o lardo che sia, si trovi in abbondanza e bollente. Da principio non li toccate per non romperli e solo quando si sono assodati rimuoveteli con la mestola forata e levateli quando cominciano a prendere colore. Si possono anche cucinare come i carciofi in teglia del numero 246, ma allora bisogna tagliarli a fette rotonde e prepararli come quelli da friggere.